chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Accendo la tele, mi fan vedere là. Giro per la strada e c'è una cifra di. Oltre a pagare ste bollette, evitare le manette. Mi sembra chiaro che io penso solo alla Real GUE in Milano, fra number one. Dogo gang, illegal come lascia la marijuana. Per la figlia e per la mamma, meglio guai di vaporidi. Sei moda quando i fra dicevano so guardi, zori. In ogni pezzo canti di una sgrilla che ti manda in fissa. Ma più che la sgrilla a me sembra chiami il tuo batterista. Io non rappo coi fusò, questi non riesco a sentirli. Anche se poi visti sonora, fra ho rivalutato i Finlay. Zero cash, zero jeep, ma la sgrilla del videoclip. La sgrilla che su Maxim, la sgrilla che fa lo strip. E a parte in trip non vado sotto, a parte a letto con lei sopra e io sotto. A scuola che le avevo tutte sotto. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Apro la posta e mi ha scritto un'altra. Accendo il cellulare, do la foto di una. Non penso alle lezioni, alla coppa dei campioni. Mi sembra chiaro che io penso solo alla. Sarà per una donna che finirò al cimitero. Se ho più sgrille di Ricucci, ma mi amano per davvero. Fra la festa mi guarda la snella senza testa. Ho la colta che non mi ascolta e mi detesta, zio. Quella che sogna di farsi il bagno ad Hollywood, ma poi finisce per farsi al bagno dell'Hollywood. Se che ascolta i Tokyo Hotel, poi alemo confusione. Zia, chi è l'uomo? Io, te. Oh, l'amica di Maria, l'arpia. Fra cancella i tuoi messaggi se c'è quella che ha l'amica che è una spia. L'ideale è la ragazza di Playboy, fra. Non è la ragazza ideale che poi presenti ai tuoi. Oh, guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Se smettessi domani sarei comunque una leggenda. Sgrille tipo una boy band stando nella Dogo Gang. È il mio primo pensiero come per uno appena evaso. Sempre in testa, quindi sai che ogni mese ho il sangue dal naso. Fra non vendo come liga, ma io ho più sgrille. Pure quella che vuoi tu, molti MC mi fanno il voodoo. Sono uscito pure con le sgrille della TV, ma non sempre poi finisce come va in TV. E se io fossi ricco, ne avrei una in più. Raffaella fico, perché con un milione me la fico. La furia è come Scamarcio senza lo Ska. E scusa se ti chiamo amore, che questo Cuba mi fa. È dedicato a chi ha la moglie, l'amica o l'amante. E al posto della coscienza c'ha la sgrilla parlante. Zio, meglio che molli il pilates e il karate. È meglio se chiami la sgrilla, poi la porti su da te. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me. Guardo quella sgrilla, chiamo quella sgrilla, prendo quella sgrilla, poi la porto su da me.